telefonata. Io pure raramente entro in FM, quindi boh, non ci ho fatto neanche caso a questa soluzione. Normalmente AM così, altrimenti quando si tratta di fare qualche collegamento in USB o SSB, poi per il resto. Però l'FM forse ultimamente viene usata di più, o no? Prima non si usava l'FM. L'FM la usano più che altro in Germania, in Francia. Noi usiamo molto l'AM, però sbagliamo, perché chiudendo lo square, vuoi fare la prova? La facciamo e non c'è problema. Vabbè, ci credo, se me lo stai dicendo. È che normalmente non sono affattato a usare l'FM, però voglio dire, se mi stai dicendo così, evidentemente anche sotto quell'aspetto lì è più comodo. Infatti tante volte mi è capitato di ascoltare in FM e ho convinto di essere spostato di banda. No, avanti Antonello, buonasera. Buonasera a tutti e due, belli scucciti. Ehi, ciao. E allora, ne fa caldo? Sì, non me lo dire, guarda, ero a cementeria stamattina a fare il pianto d'antenna. C'avevo un mal di collo dietro. Come sollevavo il collo, mi veniva a casa la... mi girava la testa stamattina. Ho dovuto abbassare il palo perché sennò non ci facevamo manco a fare l'impianto. Mi sono fatto dare la mano a Giuseppe stamattina, e pensavi anche tu Giuseppe. In quel cavolo la mia sopra quel... ma è entrato il macello, eravamo tranquilli, guardate. Portanti, chiso, chidasso, eravamo tranquilli, stavamo facendo un questo di lusso, dai. Ciao Antonello, ma è normale, no, che poi a un certo punto quando si è interrotti tra modulazioni locali esterne, portanti e portantine, poi alla fine un po' le acque si sporcano e diventano poco chiare. Sì, c'è propagazione comunque, ho visto, anzi non stato adesso. Lo so che c'è propagazione, stavamo parlando anche adesso lui, con Furi. KK, già va bene. Antonio, questo è il 3009, come esce? Bene, è una bomba. Esce come con le 4000 che usa Giovanna giù, questa delta che gli ho dato io. C'è una radio allucinante Giovanna. Quanto questo all'87 addirittura. KK, dai, io gli ho fatto un buon lavoro a questo microfono, esce bene. Ho cambiato la capsula e gli ho fatto un lavoretto, dai. Già va bene. Sì, vabbè, passa la metà di DLC anche, e pompa anche di più, non costa nulla, no? Capito? No, ma l'apparecchio non lo voglio toccare, dai. Deve andare nuovo, capito? Non lo voglio aprire. Non so come sei fatto tu. Non so che lo ti conosca. Quando l'apparecchio lo prendi, non lo tocchi nemmeno. Preferisci usarlo così com'è. Hai fatto come ho fatto io con... Vabbè, io l'ho dovuto aprire per forza. Quello che l'ho omologato e l'ho comprato perché non usciva mezzo watt. A un certo punto ho pigliato la decisione, ho preso la petta, gli ho fatto il ponticello e va a far culo. Mi ha mettato solo un watt e la dici manco toccatolo. Già è riscatto l'apparecchio. Quando lo devo mettere in mostra, lo metto in mostra e se la piglia a Napoli. Per lavorare c'ho questo e c'ho anche gli altri. Grazie a Dio, dove già non mancano gli apparecchi. Antonio, te c'è anche un FM500S, è vero? Confermi? Sì, c'è Giuseppe Leoncino, esce con quello. Ah, Leoncino lo sta usando. E io l'avevo avuto quell'apparecchio, le avevo aumentato i canali, forzandoli la manopola dei canali, mi aveva dato, l'ha rotto, c'è una linguetta di plastica, già lo sai, che tiene, lo tiene omologato, poi tu forzi la manopola dei canali, piano piano, e si spacca quella linguetta e continua ad andare avanti. Lo so, il mio è così infatti. Vabbè, non gli ho messo altre belle modifiche. Perché se voglio ho i quarzi, li aggiungo i quarzi e diventa 120 canali. Ma non, lasciate così com'era, già va bene. Come apparecchio, l'ho prestato a Giuseppe, almeno ce l'è con baracchino a casa sua. Era senza apparecchio, hai capito? L'ho prestato a lui. Infatti c'era l'LGBT fattutore. Ma non è tra mai, Giuseppe, tra pochissimo, non l'ho mai sentito, boh. una volta mi pare che l'abbia sentito, poi non è entrato più. Sì, magari già entra quando c'ha voglia, cosa ne so. Comunque già c'è la casa, c'è l'antenna piazzata in la tubo 2001, si è messo fuori. E qui esce bene comunque, il segnale di 5-7 arriva qui a casa. Finché adesso non sistemiamo la prima 27L. Avanti Sergio. Ok dai, vi lascio signori, adesso devo andare a controllare gli animali, ci sentiamo magari più tardi oppure entrerà Ricchi. Vi lascio lo spazio, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao Antonello, ciao Gianni. Ciao Sergio, dai, mi ha fatto piacere fare quattro chiacchiere, dai. Ci sentiamo alla prossima, dai. Già è stato bello, siamo stati per un bel po' tranquilli. Andave, avanti Antonio. Sì, fate appunto per quello. Ciao, ci sentiamo Sergio, ci sentiamo alle prossime, stammi bene. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Mi senti che ci sono sotto, Antonio? Ho voglia che li sento. Attenzione, canale 10, nord, sud, centro Italia, se ascoltate l'isola sarda, Gambio. Aspetta, ti dovrà parlare che sta facendo questo. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda che chiama, Cambio Lasso. Hola, attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda, Gambio. Antonio, un attimo, il telefono. Via. Marco. Ciao Tone, ciao Gianni. Sono tutto suonato dal caldo, guarda, non ne posso più. La pelle non me la posso togliere. Non so chi ci sia, qua. Io, Gianni, c'era Sergio poco fa e la tua via. Via. Io stavo facendo roba in cucina, preparando l'insalata di riso e così, da adesso mi sto rilassando, per modo di dire. Così. E stamattina ero in una cementeria, me con Giuseppe Leoncino, sistemando l'impianto antenna TV. Cazzo, non si poteva salire in quel cazzo, in una miera. Come ci mettevi le mani sopra, cazzo, scottava, cazzo. Ho dovuto metterci, togliermi la maglietta e metterci la maglietta sopra, perché sennò vorrei aprire fuoco alle mani. Aspetta, zona cementeria, è lì che i ripetitori prendono? Li prendono la sassa, devi puntare al centro ecologico e prende di riflesso, capito? Cacchio. È lì in zona un po' così, dai, un casino. È amplificata l'antenna? Beh, è amplificata sì, però se non passi in pratica sono vale 5-6 metri, hai capito? È pericoloso perché al primo vento quando metti il paratelescopio ti libi già tutto. Quelle antenne, io lo sai che quelle che stanno facendo adesso a HD pesano come coso, quindi al primo vento si piega tutto e te lo trovi in terra. Cioè dice che le antenne TV sono più pesanti di una volta? No, sono le stesse, antenna primo, antenna, cioè antenna V, antenna U, e che peso ha? Prego, l'HD è più pesante, quella che stava facendo adesso. Sono tre elementi, capito? Pesa 3 kg, pesa e passa. Allora, avanti come te. Ciao ragazzacci, Rubrofetta da questa parte, buonasera, sono entrato alla Chuck Norris, se non so che ci sia, buonasera a tutti. Buonasera Gianni, buonasera anche a te, ciao anche a te Marco. Allora, ciao a tutti e due Gianni, io sono entrato, ho sentito Pomponio, e Gianni stava rispondendo al telefono, doppio. Ehi, di quelle antenne direzionali, sì, abbastanza direzionali, un macello quella zona di comunque, che palle. Allora, una domanda per Gianni, vabbè, anche per Pomponio, ma... No, non ve la faccio, è troppo scabrosa. Boh. Aiuto. Vuoi che ti mando un video pantografico? No, si parla di antenne, no, perché... cioè, quando sono uscite le antenne per il digitale terrestre, tutto specificato anche sulle etichette... per digitale terrestre, come se fosse, cioè le frequenze sempre quelle sono, chissà, di specchietto per le allodole comunque, dai. Oppure erano semplicemente ad alto guadagno, ma secondo loro sono particolarmente indicate. Cioè, quelle erano le frequenze, quelle erano le antenne, adesso vabbè cambiano un po' le frequenze, ma bene o male. Mi sa che è una cosa per gonzi quella lì, capito? Ma bisogna cambiare anche l'antenna adesso. No, non ci credo. Per i televisori di ultima generazione ci vogliono antenne HD, ci vogliono. Giusti. No, aspetta, spiegami cosa vuol dire antenna HD. Addirittura l'amplificatore di antenna, a quanto sembra, quando lo compri cazzo devi programmarlo, se no prendi un accidente adesso, hai capito? Il prossimo anno. Quindi devi avere lo strumento e fargli la programmazione, se no non vedi un tubo. Hai capito il discorso cos'è? Adesso la questione è, ci sono antenne che sono nate da poco, sono le antenne HD, ci hanno tre elementi, ci hanno verticali, il riflettore dietro, possono essere come una volta l'antenna semplice normale, diciamo, quella che ha sei elementi, eccetera, eccetera. Vabbè, l'unica cosa che è rimasta uguale è quella della VHF e basta. Però quella per la U è totalmente diversa adesso. E pesa un bel. E dipende quale compri. Io ho preso quella leggera, niente di più, niente di meno di come erano prima del digitale terrestre, ovvero tutti i canali. Gianni, tu che hai esperienza nel cambio video, trasmissioni, cos'è questa antenna HD che dice Pomponio? Ah boh, è la prima cosa che intendo, figurati tu. La televisione adesso la utilizzo propriamente collegato al computer come monitor, poi c'è un'altra piccola che ogni tanto, ma così, ma rimane senza 5 minuti, niente, non è su una conoscenza. Cazzo, adesso ho acceso l'apparato e ho visto che si è fulminata la lampadina dello Smitter. Dagli un colpo, che certe volte questi apparecchi lo fanno. Una bella scucciolata dagli, zona Smitter. Cazzo, gli devo fare Totò, così . Allora, in quello col display rosso gli devo fare Totò. Raramente si spegne, ed è un micro falso contatto, gli do un bel colpetto. Come facevano certi operatori sui pannelli, no? Non gli si accendeva una spia, gli dai il colpetto. Antonio, io a casa ho due televisioni, l'altro giorno stavo guardando i filmati di 105, perché si possono vedere, no? In un televisore, quello grande, lo vedevo tranquillo, nell'altro mi diceva che non supportava il video, boh, da che cosa dipende? In pratica, capito? Quindi se l'altro televisore c'era normale, in chiaro, solo le case normali, 104, 105, 106, se c'è un televisore con il vecchio, sempre a LED, vedrà sul canale 104, 105, 106, cioè il 24, tra 1 e il canale 5. Invece diciamo canale 5, canale 1 e 4 in HD sono prima, hanno spostato tutte le frequenze adesso. Ah, ecco, e non vanno in automatico, bisogna sintonizzarlo. Esatto, devi fare la ricerca automatica e tu vedrai che i canali normali ti trovi a partire da 104, 105, 106, invece gli HD ti trovi tutti in fila, Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, poi c'è Rete 4 HD, canale 5 HD, Italia 1 HD, capito? Grazie per l'informazione. Gabagaba, avanti Marco, poi fai girare per già. Sì, allora Antonè, avevo Gianni, a me, allora io ho un televisore LCD vecchio, pensa che non ha il decoder HD nemmeno, full HD, no? Però a parte quello, ci sono alcuni canali, due o tre massimo, di tutti quei canali baraccone, mi dice codifica MPEG, è come se avessero una codifica leggermente diversa, MPEG 2, 3, 4, adesso l'ho perso il conto, non mi ricordo, non me li decodifica, capito? E non sono canali HD, sono canali di quelli di televendite, quella robaccia che sembrano videocassette, hanno una definizione scarsissima. Gianni, vai. E gli avvisa che ci cambiamo il televisore, Marco. Vabbè, io uno, quello LG era quello che avevo fatto dei punti della Esso. Ce l'ho una vita accanto a questo televisore, ma sempre bene. Fatto dai punti della Esso, Ehi, allora da me dice codec non supportate, sono uno, due, massimo tre canali, e non è roba HD però, sono canali minori, tipo quelle televendite luride. Vai il profeta. Ehi, niente, io ho provato a fargli qualche carezza e dargli qualche colpettino, Marco, ma io che è tutto sciudato. Niente, volevo sapere se dentro c'è la lampadina classica incandescenza oppure c'è il LED, quello bianco. Lampadina, e a questo punto io consiglierei di mettere LED bianco e con la resistenzina, pomponio te lo sa dire, sì, più luminoso, la lampadina è, qui è gialla, è blanda, poi dipende dai gusti. Certe volte a me piace più il caldo della lampadina, cioè la luce calda della lampadina, anziché quella gelida del LED. No, no, metto la lampadina, dai, no, non ho voglia di stare a smanettare, stacco la vecchia. A proposito, Fusaro, ce li ha quelle lampadine per sta roba qua? Perché non è lampadine di Natale, metti mai quelle. Allora, quando l'avevo cambiata, sì, ce l'aveva, qualche anno fa. Ma roba che a Giumai non si trova manco più. Quelle col filo giallo attaccato sono, per non sbagliarti, Gianni. Cappa, no, vabbè, non avevo voglia di stare lì a fare modifiche, cioè voglio rimettere la lampadina, dai, simile all'originale, non a Giugana. Adesso dovrei uscire, se riesco, adesso non ho idea se Fusaro ha ripreso a fare gli orari consueti, quelli da routine, oppure chiude prima, lo sapete? Comunque la GBC c'era di sicuro, dai. No, sta facendo orari normali Fusa, ma la GBC c'era di sicuro, io le ho presi lì, ne ho preso un bel mazzetto. Gianni, prova a spegnere l'apparato e riaccenderlo più volte. Spento, riacceso, a vedere se magari gli dà una botta lì. Aspetta che c'è Falcone che sta chiamando. Attenzione Falcone, se ascolti la città di Sassari, avanti. Mi stai ascoltando Falcone? Naso. Vieni avanti, da dove moduli? Da poco. E tu più che anch'io non arrivi, a Zusebu. Ma non sarà Paoletto la sorsa o no? Oh, Falcone da fuori, cosa? Paoletto la sorsa, abbuffonendosi. Da fuori. Buonasera Falcone, la città di Sassari, nord Sardegna, l'operatore Gianni Doppio Rum che ti super cordializza, avanti. Ma Falcone o Forcone? Forcone. Certo, a cosa siamo? Falcone, non hai sentito che è Falcone, ma lo sento basso, dai. Falcone, ti ascoltiamo ma molto basso, dai, datti una regolata, vediamo poi se ti ascoltiamo. C'è un po' di propagazione sottofondo, non so se l'ha sentito. Io sento una cozzaglia di segnali più correme elettrico però qua. No, ma io sento proprio la gente che parla. Ma uno sull'altro parlano, perché non si sentono da... dipende dalla regione. Chi è avanti? Chi è che vuole entrare? È l'isola sarda che ti supercordializza, avanti. Parli tu, ho visto spagnolo. Oh, manda cili. Sono tutto gonfio. Vabbè, entro io, dai. Fusaro, chiude alle 7:30 alle 8? 7:30. Guarda che apre a quest'ora, quindi muovi. Però Gianni, le trovi più dalla GBC che da Fusaro, quelle lampadine. Vabbè, no, perché devo prendere anche altri componenti. Devo prendere, praticamente mi sono accorto un difetto nel mixer audio. Praticamente prima di adoperarlo, adesso lo voglio sistemare, quindi devo prendere praticamente devo prendere un paio di transistor e quindi faccio tutto un viaggio, dai, perché mi è uscito un lavoro e quindi nei prossimi giorni mi devo attrezzare. Vabbè, se non li trovi lì lo sai. Bene, mi sa che adesso metto gli stracci e vado, dai. Fai, tranquillo. Andare. Oh già, te l'avevi poi preso quel multicom, quello grande? No, non l'ho preso. Ma è uguale a quello che è Roberto? Questo qui ha le bande laterali tutto quanto, non so se Roberto c'ha quello con le bande laterali, questo c'ha le bande laterali. Ed è anche bellino, dai, anche se ha le manopole piccole, quello che non mi piace, ma in sé la parecchio bellino. Ho visto quello, il Midland, stazione base, quello è un bel bello, a me mi piace molto quello lì, stazione base Midland. Sì, il 497, quello è, già c'ha la banda laterale, eccetera. No, mi ricordo una volta quando te ne stavo parlando Roberto, tu l'avevi detto, mi stavo mettendo a ridere, che rispetto a Saturn ci faceva schifo, che era tutto di plastica. No, che faceva schifo non gliel'ho detto, sì, ma è così infatti che la pensavo, che la penso tuttora, che non è che mi piaccia moltissimo. Lo sai cos'è? Che ci sta quello lì, cioè lo spazio basso, perché quello rimane stretto, capito? Grandi non ne posso mettere un altro così. Non è che mi piaccia più di tanto, mi è normale, proprio sì, col Saturn non lo posso manco paragonare. No, io mi ricordo, io stavo ridendo per quello, che ti era uscito, fa schifo, di tutto di plastica. Ti ho detto, come mai Gianni se ne esce così? Ma lo ricordavo se fosse ieri. E poi lo volevi prendere, cioè ti sei accorto che comunque era valido, l'importante è che funzioni bene. Ho detto, come vedi già il proverbio, chi disprezza compra. No, io no, mi piace molto di più il Midland, per dire, che io l'ho visto a casa di Tonino e il Midland è più bello. Più bello di quello lì, molto più bello, ma non ci sta qua, porca miseria. C'è uno spazio che io usavo, ti faccio presente, che ci mettevo il computer, quindi è basso. E ci sta solo quel tipo di stazione lì, capito? Così basso. Se no mi tocca abbassare tutto, fare un casino e mettere fissa la situazione. Devo mettere il piano fisso, capito? Invece che metterlo scorrevole, ritorno lo scorrevole, lo metto un fisso e lo posso abbassare di un po', non di tanto, ma di un po' sì. No, ma in effetti, cioè, l'ho visto, però l'ho fatto in modo diverso, con le luci blu e tutto quanto, è molto migliore, capito? Perché quello che c'ha Torino c'ha le luci blu, è bello per quello, gli dà un altro aspetto. Entro al volo, dai ragazzi, io vi saluto, che così vado da Fusaro a prendere sta roba, dai, correti per me, salutoni e niente, dai, ci sentiamo i prossimi giorni e sì, ce l'hai, buona serata. Ciao Gianni, ciao, buona serata anche a te, dai. Ciao Gianni, buona serata. Pomponio, non so se ci sia ancora. Ho perso il filo già, stavamo parlando del 497, luci blu, cosa che volevo dire? Che non stanno facendo più niente di innovativo, di base, rispetto a una volta. Bello era quello famoso americano recente, che però gli mancava l'FM, aveva MSSB e sembrava un HF, ti ricordi, però costava quanto e più di un cable. Porca miseria, un baracchino. Brecco da Roma. Avanti Roma, avanti, l'isola della Sardegna, città di Sassari, l'operatore Gianni Doppio Lumma, avanti. Buonasera Gianni Giuseppe Velletri, 40 km a sud di Roma, ben ascoltato per la prima, finalmente sono riuscito a contattare la Sardegna, quest'anno non sono potuto venire in vacanza ma almeno riesco a sentire la Sardegna. Lì bella Sardegna, Sassari, Nagomer, Alghero, vai Gianni. Cappa, dai, non ho capito il tuo QRZ, ma qua arrivi sparato, non hai bisogno di gridare. arrivi abbastanza bene di radio e anche di Santiago, dai. Sono in compagnia di altri amici dalla città di Sassari, dai. C'è Marco Condor che adesso ti passo, poi facciamo girare. Avanti Marco. Ma io ho 3 watt, non arrivo lì. Attenzione all'amico di Roma, se mi copi. 1, 2, 3. Sì, ti copio perfettamente, un po' disturbato, ma ti copio. Io sono l'aiutino di V131, sto a 40 km, se ho capito bene il nome. Gianni, ho difficoltà a sentire, dai, mi riprendi tu. Roma è difficile. Non ho capito il tuo QRZ, sempre Gianni doppio Roma, avanti col QRZ che non ho copiato. Sono a 40 km a sud di Roma, Velletri, 40 km a sud. E la mia postazione è a 200 km del mare e a 25 km dalla costa. K, e il tuo nome nominativo, grazie. Allora, operatore Giuseppe, e esco così con nominativo Italia 129 Romeo Mike. K, dai, Italia 129 Romeo Mike, ti ascolto forte e chiaro, ed è anche un tris per me, perché Roma non è che si copi molto qua in questa zona, è molto difficile come zona. Velletri, ho capito dove sei, dai. Io amici lì, a Ostia, quella zona lì, quindi ogni tanto ci vado. Ho capito, ti ascolto abbastanza bene, deve essere la propagazione favorevole per voi oggi, ma diciamo, copiare Roma è un po' difficile, ripeto. Santiago 7 e Radio 5, la mia postazione lì, sono rimasto stupefatto perché è tanto tempo che cerco di contattare la Sardegna, perché per noi di Roma, la Spagna, ma la Sardegna è poi una città. Capa, dai. Sì, sì, in effetti diciamo che il collegamento con Roma è un po' difficile. L'ho collegata forse in tanti anni, 3 o 4, non di più di 4 volte. Capa, c'è anche Marco, io Marco, fate sentire, dai. Purtroppo l'amico ha QSB, sale il segnale, sale scende, quando sento fischi sotto altre modulazioni, non riesco a tirarlo fuori bene, dai. Sì, è vero, arriva di più il nord Italia e il sud Italia, ma il centro tipo Roma è più difficile, è inusuale, dai. Marco, hai sempre sentito? No, non lo sento bene. Purtroppo si è abbassato molto, appena entrato era 9, appena entrato adesso è molto, troppo QSB, troppe sovramodulazioni. K, l'amico di Roma, dai. Marco non ti ascolta bene, dice che ci sono troppe sovramodulazioni, io ancora ti ascolto in questa zona, dai. Io sto scendo con una Game Master, un 3009 e il microfono è l'MV più 5. Non so se mi ascolti bene anche di radio, così mi confermi se la lontananza va bene. Lo conosco, quello con una valvola, dai, ho capito qual è. ZG, diciamo che più o meno i vati sono gli stessi, dai. K, chi c'è anche Antonello? Antonello? Antonello si deve essere allontanato. Dai Marco, fatti sentire, già lo sai che puoi. Oh, devo attaccare, collegare così, no, ne ho voglia. Non ne voglio di niente, quello di ex proprio me. Una giocana, c'è troppo caldo. KK, dai. Quindi, ma lì a Roma, quella zona di Roma, vedete quella zona lì, come siete in 27? Ce ne sono CB? Sì, guarda, abbiamo ricostituito le 18 AM, molto AM, molto. Poi ecco, 7, 27, 035, sempre un USO se c'è la possibilità, 035, USB, 40, noi invece abbiamo un salotto, ci troviamo la sera sul canale 10, a volte ci tratteniamo sino a tardi, anche sino all'1, all'1 meno un quarto, dai. ci tratteniamo sin tardi. Periodo di Covid-19 ha aumentato notevolmente le persone che avevano prima l'apparato, hanno rispolverato tutto e hanno aumentato. Bella la portante. Stiamo donando questo già. Vicino a Roma. E sentiamo che arriva. Belletti. L'anno prossimo di poter venire lì in vacanza. Quindi ci sentiremo su sti canali. Ciao a tutti, Giuseppe Belletri, QRT, ciao a tutti. Ciao Giuseppe, dai, è stato un piacere modulare con te, dai. Ci sentiamo alle prossimine, magari anche in migliori condizioni, dai. Buona serata e salutoni a QRA. Ciao Gianni, ciao. Avanti Claudio, buonasera. No, ora solo per chiederti dove stava trasmettendo questo di Belletri che arriva a Santiago e qua. Continua. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Claudio, sì, qua ha toccato il 9 massimo, ma è un QSB veloce pure, proprio oscillava in modo pauroso il segnale, poi di fondo c'è troppo casino, ho varie modulazioni una sull'altra. Pomponio c'è ancora? No, ma c'è Giulio, l'ascolta, avanti Giulio, entra io. Sì, vabbè, continuate, no, sono intervenuto perché c'era la portante, avanti, tutto lì, continuate, dai. Buonasera a tutti e due, dai, fate come volete. No, magari qualcuno stava chiamando e ha parlato assieme. No, era più importante sopra Gianni. Confermo. Insomma, questo Covid, oltre tutte le rogne, ha riportato le portanti 27. Gianni, non è chiuso, no? No, sono qua io. Sto crepando di caldo, però Marco, dico la verità. Adesso mi accendo il condizionatore. Io non l'accendo perché tanto sono in perizoma, i pantaloncini, quasi mutande, ho il ventilatore a piantana, diciamo, mi faccio bastare quello, dai, se no il condizionatore mi crepa. Ciao Giulio, anch'io non ho voglia di far dietro, proprio non ho voglia di stare lì a cercare di tirare fuori il segnale. Poi con 3 watt dove vado? Dove cavolo vado con 3 watt? Io vabbè. Già ti ha ascoltato lo stesso, ha detto che ti ha sentito. Ehi vabbè, ma insomma, non aggiungamami. Anche mi è passata anche la passione di ex, così, contattini alla buona. Comunque è vero, arriva sempre il Sud Italia e il Nord Italia, tipo zona Venezia, però il centro, tipo Roma e dintorni, ben poco lo sento. E come mai? È difficile, Roma. Io te lo vedo, l'ho coperto 3 o 4 volte da quando sono in frequenza, per quanto mi ricordi. Magari negli anni 80 sentivi tutto da nord a sud, tutta Italia e anche oltre. Arriva molto Venezia, Bergamo, quelle zone là. Quelle zone alte là, al confine anche con la Svizzera, per dire. Oppure Sud Italia, Manetta, Manettone, capito? Calabria, Sicilia, eccetera. La Sicilia è all'ordine del giorno, anche la Calabria ho collegato in questo periodo. No, ma già va bene, dai. Vabbè, dai, riprendete se c'è rimasto qualcuno, io mi voglio di mangiare e coricarmi adesso, al fresco. C'è la madronia del biglietto. E al mare non ho manco voglia, cioè mi costa andare, viaggiare, portare tutta quella roba che importo io, capito? Io non vado con asciugamano e bottiglietta d'acqua, io voglio stare comodo, però poi ti pesa tutta questa roba. No, io mi porto la borsa con degli asciugamani, 3 ricambi di costume e niente, l'ombrellone, cosa l'acqua se la vuole me la compro lì, cosa sta a portarmi 1000 cose appresso, una bottiglietta d'acqua, tanto cosa gusta, ma non sto a portarmi tutti questi pesi, sedi non ne porto, se no è meglio andare al Lido, pagare l'affitto di una sdraio, le cose non fai fatica né niente. Sì, praticamente io mi porto, vabbè, l'ombrellone per forza, che poi è in alluminio anche leggero, una sedietta che poi è in alluminio anche quella, e lettino anche, lettino perché è più comodo, mi. No, signore, mi ripiace sia come ti ribascia. Sì, mi trovo male, cioè in terra non trovo mai la posizione giusta se metto l'asciugamano sulla sabbia, poi mi devo mettere un po' già a testa per rialzarlo, il lettino c'ha il poggia testa pieghevole, volendo c'ha quella letta a parasole per il viso, io voglio star comodo. Bravo Marco, fai bene. Dai, io è finita la stagione che ho portato frigorifero con tutta la roba da mangiare, acqua, liscio, chissà, lui, se vado dalle 8 a mezzogiorno e me ne sto tornando. Eia, cioè tu preferisci andare col fresco e tornare col caldo? No, io il contrario, io vado col caldo, poi quando sono stanco dalla serata, quando ritiro la roba è già fresco. E invece mi ricordo a Alghero, andavo la mattina e andavo via all'ora di punta, un caldo, piegando la roba, chiudendo tutto, un caldo terrificante, peggio che a Platamona, perché Alghero tipo Lazzaretto, lì c'è un caldo soffocante alle volte, quasi da infarto. Marco, le ore migliori sono quelle dalle 8 a mezzogiorno, lì già tutto, non c'è il sole caldissimo e te ne vai via tranquillamente senza arrostirti. Tu allora che vai tu, cata le 2 così, c'è un sole che spacca le pietre, come fai a stare? Ma poi cala, cioè, che ne so, alle 2, 2 e mezza sono lì, fai alle 2 e mezza sono lì, e poi me ne vado te alle 6, 6 e mezza, c'è già più fresco. E sai cos'è, già a me costa alzarmi la mattina, proprio per questa insonnia che non vuole passare, anzi sta peggiorando. Non riesco più, una volta lo facevo, adesso non più. Chi vuole riprendere? Claudio, Giulio, io? Io se devo andare a pescare vado, per dire, vado alle 8 di sera e poi me ne ritorno verso le 11 e mezza. Ho sentito un break. Guarda, anche pescare non mi piace più. Cioè, sono 20 anni, quant'è? 15 anni che non vado più. Tutto, i mulinelli sono da buttare, le canne sono buone. I mulinelli sono tutti rovinati. Vabbè. Non ho più la passione, avanti Black. Sarebbe bello, poi il mare è anche più bello. Ciao Nicola, c'è Gianni, Claudio all'ascolto, Giulio all'ascolto, forse anche Pomponio. Certe volte a Platamona si sporca in serata, cioè vai la mattina che magari è più pulito, poi cominciano ad arrivare alghe, comincia ad arrivare acqua gialla, non sempre però, dipende proprio dai punti di Platamona e a giornate, capita. Intanto comunque già mi sono bruciato perché avevo un filtro solare che era solo fattore 10. E io sono molto bianco, io di solito uso il 35, 30 la prima volta che vado, se non il 50. Infatti avevo il viso che sembrava un gambero. No, io il 50% uso, perché la mia pelle è delicatissima, è come quella dei bambini. Mi si formano le piaghe secondo come prendo il sole. Mi faccio il rosso rosso e poi mi si formano le piaghe, allucinante. Ma una volta questa amica mia ha detto, per abbronzarti, sai cosa devi fare? Devi prendere l'olio, metterci un po' di limone e acqua di mare. Cazzo, si è riempita di piaghe, aveva paura a casa a dirlo alla madre, l'ho dovuta curare io. Veniva a casa e la curavo io perché aveva paura a dirlo alla madre. Tutta piena di piaghe. Eia, naturalmente io ho bruciato leggermente più che altro il viso, perché io sul viso non l'ho messa la protezione. Comunque protezione 10 per il primo sole è troppo poco, è troppo troppo poco per la mia pelle. Anch'io sono bianco, sembro un cadavere. Vai Nicola. Così si fa la bronzatura del burattone. Io poi, detto tra noi, a me della bronzatura poco mi interessa. Io vado per restare a bagno, poi c'è la maschera, pinne, vado di scogli, guardo i fondali, così. E poi sto molto all'ombra lo stesso, all'ombrellone. È che non troppo sole, poi io ho dei nei un po'... Insomma così, che meno sole prendono meglio è. Vai Gianni. scappa. Ciao lupo grigio, ho detto però con la carottera poi ti prendi il sole come il muratore, poi ti vinti la bronzatura in tutto il corpo con gli scegli della carottiera. Scusa, mettendo la potenza al 50% ti bruci lo stesso. Vabbè, c'è questo problema, fai bene. No, io metto la crema al 50%, me la faccio spalmare da qualche bella donna. Scherzo, dai. No, vabbè, a parte tutto, anche se ci sono, me la metto lo stesso, me la fuggi. E quella lì mi protegge, dai. No, le disinfettano, tranquillo, le disinfettano prima di darle. Io me le porto da casa, lettino, sedietta e vabbè, ovviamente ombrellone. Fra poco ti ricopre il carrellino per portare la roba al mare. Te lo attacchi col cacciatore. E lo zaino dove lo mettiamo? Io mica mi porto una borsettina, io ho lo zaino da 80 litri, che poi sono 60, perché ci stanno le pinne di lungo, è stretto e lungo sto zaino, no? E la maschera, asciugamano, almeno un litro d'acqua, poi che ne so, un tramezzino, tante cose, miei accessori, roba che comunque mi può servire, mi potrebbe servire, io sono previdente. Mi porto qualcosa in più. E ora qua poi si scade, invece te la compri al mare, bella fresca. E vabbè, già c'è un termosini, già ne ho di roba. Poi porto il secchiello, la paletta, per fare i castelli. Adesso è vietato anche fare i castelli. Perché? No, vabbè, sto scherzando, mi dà la paletta e il secchiello, Gianni. No, in certe zone, forse la pelosa, io ho sentito un'ordinanza, tutto era vietato, fare anche giochi in spiaggia, non so se persino i castelli per evitare che qualcuno ci inciampi. Guarda che la pelosa è diventata una cosa da fiaghinimi, non sopportano nulla. Poi c'è questi che ti controllano quanti, te l'ho detto già, quante particelle di sabbia c'è attaccata ai piedi in modo da farti pulire i piedi. E asco, addirittura non so se hanno messo le steward, a parte vicini urbani, cioè c'è dei tipi che stanno a pattugliare la spiaggia, a controllare se c'è qualcosa fuori posto, se non hai messo la stuvietta sotto l'asciugamano. Oh, ma stiamo scherzando. Sì, non puoi mettere l'asciugamano sulla sabbia per paura che si porti via la sabbia. Sono cattate, secondo me, sono tutte cattate. Qui fanno scappare la gente. Ah, poi tutto a numero chiuso, poi non so se abbiano introdotto o vogliano introdurre il ticket, cioè oltre che vietato fare tutto, devi pure pagare. Comunque poi rilancio vabbè, non mi viene il nome. Ti volevo dire già che già tanti anni fa, ma tanti anni fa, tipo 20 anni fa, con mio cugino e famiglia, no? Noi ci siamo preparati in spiaggia per andare con le mute tutto lontano, cioè ben oltre la torretta, cioè in punta di coso, no? E uno ci ha detto, le persone si stanno lamentando. E noi abbiamo detto, di cosa ci devono lamentare? Noi ci stiamo vestendo per andare lontano, capito che luogo di fiaghini è? Cioè ci stavano lamentando che noi avevamo questi fucili scarichi poggiati lì, che ci stavamo vestendo, pigliando le boe e tutto. Capisci a che livello è? Vai, non mi viene il nome, Nicola. Io sono andato. Vabbè, qua, prova. Vabbè, qua non fa testo, è un 9 più 10, un quasi 9 più 15, ma non fa testo perché siamo vicini. Da Gianni quanto sei, Gianni? Oh, qua sì, basta. Vai, prova. Qua sì, 5 e mezzo sì, dai. 5 e mezzo sì, la radio 2. Ma non parlano di copro. No, anche italiani, dico, anche italiani. Mi, poco fa Roma, sì, Roma ha collegato Gianni, Gianni ha collegato Roma, sì, viceversa. E arrivava con un segnale massimo di 9, anche questo di Velletri esattamente. Vai Gianni. E adesso lo stanno coprendo a lupo grigio, non lo sento più. Ci sono quelli di fuori che lo coprono. Ebbene, lupo grigio, questa antenna ancora non ti sei deciso. No, la seconda mano le puoi trovare, tanto disco. Ma le paghi tipo il gas, lo paghi sulle 200 euro. Ma adesso io ho visto che mi stanno messo a 5 sono più tanti gas, lo sai. Ma scusa, non puoi prenderti un alimentatore, sei ancora a livello di batteria. Cioè, un alimentatore lo attacchi all'elettricità e fate il gioco, ok? Cosa, perché devi usare la batteria? Marco, non lo sento più. Sì, c'è Santiago 7, qua sento una... c'è propagazione, dico, purtroppo problematico anche modulare all'interno di Sassari con antennini. Allora, comunque già, sempre negli anni che furono, vendevano stazioni base anche omologate, però con non cose esorbitanti e enormi mastodontiche come e complete come i Saturn. Esistevano 40 canali AM FM con i soliti controlli RF gain, mic gain, tipo la Intech B3104AF. Non so se te la ricordi, andava a 220, c'avevi il lato plante frontale e un 40 canali MFM. Adesso non fanno nemmeno più quelle, perché quelle avevano un prezzo contenuto, cioè le pagavi poco di più di un veicolare, diciamo. Però non ne fanno più. Guarda, la stessa base l'ha fatta la Team, Team, non so di dove sia, forse è tedesca, ti mando la foto. Di base qua non ne fanno più, se magari fosse in America ancora qualcosa c'è, non lo so però, le stazioni base ormai sono sparite. Se ci guardiamo, forse perché prendiamo troppo spazio, però fanno la stazione, le basi sono finissime. Va bene, buon pomeriggio, ci sentiamo, ciao! Ciao Nicola, ciao, buon proseguimento di serata. Adesso vado a mangiare io, mangiare qualcosa. Mi già. Allora, questa Team che ti ho mandato, Team, non so come si pronunci, vedo il logo tedesco, no? O austriaco, delle poste e comunicazioni. Sì, praticamente aveva anche dei tastini con le funzioni, tono, canale 9, le scansioni mi pare. Però era 40 canali MFM, capito? Niente di esorbitante. L'abbiamo comprata noi tempo fa, poi l'avevo regalata a Pomponio che aveva qualcosina da sistemare. E la usava, la usava fino a qualche tempo fa. E poi che ne ha fatto? Ah boh, io la roba, una volta che è regalata, può farne quello che vuole, venderla, bruciarla, farla fritta. Ma non l'ha regalata, te l'hai stufato. E non è roba che uso, cioè è sempre più ingombrante di un veicolare. Diciamo che riceveva saturo, la ricezione era satura. E c'era un componentino da cambiare, cioè lui gli funzionava lui. Gli funzionava. L'aveva messa un po' a posto, dai. Sì, poi non sai cos'è, non c'aveva SSB nemmeno, c'è proprio 40 canali MFM come un veicolare. Ah, ho notato una cosa già, la Intech in catalogo non ha più niente di baracchini, c'ha solo un baracchino, che sarebbe l'899, che è sempre un veicolare multistandard, però non ha, prima ne aveva 10 modelli, c'aveva quelli a 400 canali, non sta più portando niente la Intech di CB. Niente di nuovo almeno. Ah sì, lo sai che lo faceva anche la Intech, lo conosco questo, lo faceva la Intech, pure c'era anche marchiato Intech questo. Sì, ma sono sempre così, le stazioni base un po' che ti lasciano un po' di amaro in bocca. Eh beh, certo, non è che facevi molto. Guarda, se non ricordo aveva anche i canali sul microfono. Però per dire, c'hai l'alimentatore già incorporato, non devi comprare nulla, lo attacchi alla 220, l'antenna e va. Sì, quello mio era Intech, uno dei tanti apparecchi presi da mamma poi, e lei aveva il monopolio, no, come dire, finanziario lì. E un bene abbiamo cambiati poi tutti i soldi. lascia perdere, che quando si romperà l'antenna sul tetto non penso che la rimpiazzerò comunque già. Sempre voi. Ma vedo che c'è molta assenza, troppa assenza, c'è un periodo che sono entrate tutte queste portanti basse, medie, alte, no? E poi la gente si è rotta le palle. Tra l'altro il Covid ha portato gente, che magari molta più gente, ma certi scommetto che hanno disotterrato i baracchini solo per mettere portanti, solo. Io ho capito. Che ti meravigli. Qui è Gianfranco. Vabbè Gianfranco, non sei evaporato dal caldo? Insomma, guarda, lasciamo perdere. Ho avuto la felicità di andare da Ossa, ma a fare il fornimento di gelati, mi hanno chiuso. Mi hanno dovuto spingere pure dalla macchina fuori al posteggio. Se fossi stato in un altro posto, guarda, mi avrei bucato 3-4 verbotte, sfasciato i vetri, bucato il serbatoio, staccato il motore e anche lo sterzo, così almeno imparava. Gente veramente indegna. Sì, buonasera a tutti, comunque vi sto ascoltando, o meglio ogni giorno ascolto, però non entro perché c'è troppo, come hai detto tu, troppo casotto. Cioè anche ieri ma stavo ascoltando in digitale i tedeschi, che su 23, credo, 24. Eia. Io adesso sì, devo lasciarvi per via dell'ora, sì, caspita, le 7:15. Oggi volevo pranzare presto, tra virgolette, no? O come dice Gianfranco, far colazione. Invece sono le 7:15. Quindi pranzo unico, cioè pasto unico e stanotte non ceno, è troppo tardi. Porca miseria, va bene. Dai Gianfranco, ti lasco, sì, oggi non me ne esce bene una, ti lascio in compagnia di Gianni. Ci sentiamo quando capiterà, fra un'altra settimana. E ciao, ciao a tutti. Vai già. Ciao Marco, ci sentiamo. Ciao Gianfranco, anche a te. Dai. Sì, sto chiudendo anche io, dai. Chiudo un attimino e poi magari riprendo più tardi. C'è troppo caldo. Ok, va bene. Ciao Gianni, allora. Ciao Marco. Marco, ma cos'è questa? Cosa fai? Quindi adesso ti prendi il cappuccino, la brioche, poi dopo un minuto la pasta asciutta, secondo, ma fai anche cena? Tutto in uno, colazione, pranzo, merenda e cena, tutto in uno, e anche spuntino notturno, tutto in uno. No, a parte gli scherzi, insalata di riso, che spero che a quest'ora presa dal frigo sia più fresca, e così, dai. Tutto leggero, perché tra l'altro non si può neanche stare al mare, perché io c'ero stamattina facendo allenamento, ma sono sceso alle 7:30, 8, però alle 10 c'era già l'arco al mare, andarsene, caldo micidiale, oltre 30, oi oi. Vabbè, buona mangiata. Beh, tu ti dovresti mettere il costumino da bagno, quando finisci di fare ginnastica ti tuffi in acqua, sai? No, non mi piace, quando c'è gente, io sono di quelli molto solitari, almeno 500 metri di distanza dal primo ombrellone. Dai Gianfranco, ci sentiamo dopo, troppo caldo c'è qua, non fa strada. Io infatti ho chiuso tutto, perché tanto se apro non entra aria calda. Io ho acceso semplicemente il ventilatore, non ho acceso neanche il condizionatore, perché poi fa freddo, esci fuori e ti fulmina. Va bene, faccio un po' l'ascolto su, giù, destra, sinistra e poi vediamo un po'. Attenzione 10. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola. Attenzione 10. Attenzione 10. Ciao Riccardi. Ciao Roberto, dimmi cosa ti sembra questa radio. La nuova è questa. Sì, c'è un'altra. Una bomba, sta uscendo benissimo. Fai un passaggio più lungo. Ok, va bene, dimmi come sta andando. Adesso sto usando un baracchino della Royce con un microfono da Palmo Turner MP2. La radio è perfetta, è eccellente. Puoi amplificarla, puoi alzare. sono al massimo, no, no adesso non posso, come adesso sono al massimo, non riesco ad alzare il ho anche un po' le batterie scariche. No, la radio è perfetta, pulita, chiara e naturale. Benissimo, sono contento, allora, non mi hanno dato una fregatura. Cosa hai detto Riccardo, non ho capito. Che stavo dicendo, meno male non mi hanno dato una fregatura. No, molte volte già si trovano le occasioni. Va bene, non c'era nessun altro, comunque, sei in radio, sono centrato. No, ho fatto una chiamata adesso, 2 minuti fa, poi ho sentito a Fabio per messaggio, ti ho mandato anche un messaggio a te. Per farmi sentire la radio nuova, ma va benissimo, alla grande, è pulita. Non so, non c'è nessuno, ho fatto una chiamata ma non ha risposto nessuno. Ah, ho capito. È in buone condizioni comunque. Sì, già, tutto sommato va bene. Quante volte tira fuori? 5 ci arrivo. Sì, fai tanto di più, è stato fuori dal 10. Il segnale è quasi 9+20, buono, ottimo e pulita, soprattutto la radio, perfetta. Non aveva il microfono originale, mi ha dato questo palmare, però va bene. Ma l'attacco Royce è diverso dall'attacco del Milan, degli altri baracchini che hai dal Turner? No, questo Turner è un 4P. Prova l'altro del, come si chiama, del Colt. Vuoi sentire l'MP+5? Fai sentire, sempre che sia uguale le connessioni, dell'MP+5 e dell'altro Turner, come si chiama, sai, super, come si chiama il coso, quello della Turner, Turner, cosa si chiama? Vuoi dire l'Expander 500 o il Q3? Expander, non mi viene mai il nome di quel baracchino, di quel microfono. Da adesso attacco l'MP+5. Fai una prova, stai attento, vedi, se non va bene al primo tiro toglilo via subito. Ronzio forte. Roberto. Dimmi Riccardo. Gli altri ho provato a vedere il tunnel, però già come li metti dentro l'attacco innescano. No, lascia stare allora, lascia questo e buco. Sì, va bene allora. È perfetta la radio, ottima. Ah, ti ringrazio Roberto. Come? Ti ringrazio Roberto. No, già lo sai, io quando c'è una cosa che non mi piace lo dico, non sono di quelli che dicono solo va bene, sì, e fatti contento. Deve essere pulita, questa è una radio perfetta, pulita, senza nessun difetto. Ciao Roberto. Ciao, sì, beh, tutto a posto. Sì, dai, tutto a posto. Stavamo provando questo apparecchio che all'inizio dice che è stato fermo 5 anni dalla... però adesso gli ho dato una spruzzata di quel pulitore contatti e l'ho lasciato acceso, sembra che stia andando bene, ci mi ascolti così. Guarda, una delle migliori modulazioni che c'è in circolazione, no? Perché ci sei tu, è perfetta, non ha nessun difetto, la tua voce è naturale, come piace a me, senza nessun difetto, vero, difetti 100% pulita. Perfetto, beh, mi fa piacere questo. Adesso stavo guardando, perché mi ha mandato addirittura il manuale originale, che è perfetto, nuovo, stavo guardando, 12 watt in FCP e in AM, stavo guardando, 4 watt. No, ma c'è un bel segnale, sei quasi 9+20, sei paragonabile quasi all'altro apparato un po' più potente. Dai, così vuol dire che allora va tutto bene, dai. Questo è più che altro è stato molto capito, perché c'erano un po' di segni così nel tempo più che altro. Ti ripeto, è una delle più belle modulazioni che c'è qua in frequenza, perfetta, pulita, non ha nessun disturbo, diciamo, molte volte c'è esaltazione di acuti, di bassi, di me, questa è pulita, nitida, chiara, perfetta. Tu pensa che stasera quando l'ho acceso pure per la prima volta, ho chiesto un controllo a 5, proprio mi sentiva bassissimo, quasi incomprensibile. A dire, oh vabbè che lui... c'è un radiante di manto, ma in una zona un po' scomoda, un po', diciamo, poco come cosa, come posizione un po' sfavorevole, dai. Sì, poi me ne sono accorto, perché praticamente di radio lo sentivo intorno ai 4, come radio, comprensibile, eccetera. Poi guardo il segnale, convinto, dopo per scontato, perché non ho guardato lo smitter che arrivasse un Santiago 9, invece mi arrivava Santiago 3, quindi da lì ho capito che mi arrivava un passo anche per quello. No, io Santiago 3, quando c'ho l'antenna staccata forse, il minimo di segnale è 5, proprio per andare a prendere un segnale devi sollevare oltre il 6, se no il QRM io ce l'ho minimo 5-6. Ho capito, Vabbè, tutta la zona un po' guerrema, con questa vecchina, un po' per il traffico, eccetera, eccetera, quella giornata. Quando è così come oggi, che c'è propagazione e guerrema di tutto fondo, poi il disturbo diventa importante. No, ma ti ripeto, qua i segnali, per prendere un segnale devo essere 7, ma i minimi sono 7, voi invece vi sento molte volte, io lo prendo Santiago 2, Santiago 3, è impossibile, io non posso ascoltare segnali così bassi perché sono per